24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Onori al presidente Napolitano! E mi permetteranno i membri del Parlamento europeo di ricordarne uno per tutti. Il momento è venuto, io saluto tranquillo. Vorrei che oggi da qui il Parlamento europeo portasse il proprio saluto al presidente della Repubblica italiana, Giorgio Napolitano, convinto europeista. Viviamo in un mondo molto difficile, abbiamo visto nei giorni scorsi che cosa è successo in un paese vicino e amico come la Francia. Necessità di un paese che sappia ritrovare di fronte alle questioni decisive e nei momenti più critici la sua fondamentale unità. Adesso dobbiamo discutere di quale sarà il profilo che dovremo avere nei prossimi 7 anni, un grande arbitro, un arbitro che aiuterà il paese a crescere. Forze politiche l'altra volta non hanno brillato, stavolta non possiamo fallire. Deborah Serracchiani, vice segretario del PD. Comincia la caccia al presidente. Ecco, al PD vi siete dati un metodo col quale procedere nel rapporto con gli altri partiti per scegliere il candidato e restare uniti? Sicuramente siamo consapevoli che saremo protagonisti di questa elezione, quindi insomma vogliamo fare certo. Le cose bene. E il metodo? Siamo partiti intanto cercando i requisiti di questo nuovo presidente, insomma essere all'altezza anche del ruolo così che è stato esercitato da Napolitano non sarà facile. Noi naturalmente. Riteniamo che debba avere credibilità internazionale e anche capacità di equilibrio, non a caso il segretario nazionale ha detto più volte un arbitro e non un giocatore. Ma vi siete dati un metodo nel rapporto con gli altri, per costruire il consenso nel rapporto con gli altri partiti? Beh, intanto si parte dal Partito Democratico e poi l'idea è quella di allargare il più possibile la condivisione, parleremo con tutti partendo naturalmente da Forza Italia, anche perché è il numero grosso che c'è in Parlamento, certo. Tenuto conto che il Movimento 5 Stelle forse non ha ancora del tutto chiarito la propria posizione. Ecco, onorevole Serracchiani, ma sullo sfondo c'è l'incubo dei 101 franchi tiratori che hanno affossato Prodi? C'è questo incubo? Ma guardi, onestamente non credo, è cambiato molto il Partito Democratico, così come è cambiata molto la composizione del Parlamento rispetto a quel febbraio-marzo 2013. Io credo che il Partito Democratico abbia trovato una maturità nuova, lo ha dimostrato in scadenze importanti, lo farà anche stavolta, quindi senta, onestamente ma... penso di no. Però c'erano anche i renziani all'epoca nel gruppo dei 101, almeno una parte. Guardi, non lo so e non voglio sapere, la fortuna di non essere seduta in quel Parlamento in questo momento. Senta, oggi per associare la dissidenza del PD, la strada qual è? Ma io intanto credo che vadano tenute distinte le riforme dall'elezione del Presidente della Repubblica. Certo, ma parliamo del Presidente, sì. Appunto, altrimenti rischiamo di entrare in giochi di partito, certo. In questioni, se vuole, anche personali che è meglio tenere assolutamente fuori. No, io credo che sia la posizione del Partito Democratico abbastanza chiara nella ricerca di un candidato, sicuramente che ci tenga tutti insieme, però devo anche dire, come sottolineavo prima, che la maturità che ha trovato il Partito Democratico più volte, sono convinta ci farà fare la scelta migliore, ecco, insomma, ma... anche tenendo insieme tutti i pezzi. Ecco, ma il futuro presidente non deve essere per forza proveniente dal PD. Ma guardi, queste che sia per forza proveniente o non proveniente, perché sia un problema soprattutto della destra, insomma, Berlusconi è stato chiaro, dice per 3 volte è stato uno di sinistra, adesso tocca a qualcun altro. No, ha detto anche, in realtà ha detto anche un'altra cosa, ha detto tutte le massime cariche dello Stato oggi sono in mano alla sinistra, Presidente della Camera, Senato, Corte Costituzionale, CSM, Presidente del Consiglio, metà paese non è rappresentato, insomma... ha detto questo. Diciamo, il presidente Napolitano ha dimostrato di essere persona equilibrata e di riuscire a rappresentare il paese anche nei momenti di grande difficoltà. Noi abbiamo detto, e credo che questa sia una rassicurazione importante, che non sia un giocatore ma un arbitro, che significa che deve essere appunto equilibrato rispetto a tutte le forze politiche. Senta, il Toto quindi non necessariamente deve provenire da quell'area, tradotto diciamo in italiano. Vediamo quello uscendo che dal politichese. Sì. Senta, ma il Toto candidato naturalmente lo fanno tutti. Pensa che Renzi potrebbe far uscire dal cappello un nome assolutamente non previsto fra tutti quelli che circolano? Cioè, c'è una possibilità di colpo di scena secondo lei? Oddio, sinceramente non ho l'esperienza dell'elezione di altri presidenti della Repubblica. Certo. Mi pare un'elezione talmente delicata che più che colpi di scena spero davvero che non facciamo brutte figure, insomma, abbiamo già passate troppe. Ecco, ma di fronte al rischio di impasse, se si fermasse dopo la quarta, la quinta votazione, ci fosse la mancanza dell'accordo, potrebbe essere un disastro. Ma guardi, io non voglio neanche pensarci, perché credo che ci sia la consapevolezza di quanto sia importante andare avanti sul piano delle riforme, di quanto sia importante non disperdere la credibilità internazionale che con fatica in questi anni abbiamo riconquistato. Certo. Per cui onestamente sono convinta e auspico che tutti abbiano questa consapevolezza e che quindi insomma si riesca a trovare una quadratura in tempi ragionevoli. Certo, quando si parla di profili internazionali le rose si restringono molto. Ma io penso che sia un requisito che serve, insomma, fondamentale, serve anche perché certo. I nostri rapporti con l'Europa sono fondati anche su relazioni spesso personali, sono relazioni che si costruiscono negli anni, certo. Insomma, io credo e non solo l'Europa. Che sarebbe no, appunto, però quello sarebbe un segnale, certo. Un segnale importante. Senta, le faccio un'ultima domanda e poi so che deve partire. Si potrebbe mai fare il Presidente della Repubblica senza Berlusconi? Ma io credo che non si dovrebbe e potrebbe fare mai senza alcuna forza politica. No, ma mi risponda alla domanda. No, io sono convinta che Berlusconi parteciperà alle elezioni del Presidente. Quindi senza di lui non si può fare, diciamo. I numeri sono abbastanza chiari. Insomma, anche tenuto conto che dopo il quarto scrutinio c'è una maggioranza assoluta, in ogni caso servono dei numeri importanti, anche per legittimare il prossimo Presidente. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Mi sembra, Mario Pietrangelo, che la notizia la Serracchiani ce l'ha data, è precisa: il presidente senza Berlusconi non si elegge. Ma mi pare abbastanza ovvio, pacifico, ma ha dichiarato è importante diceva, che l'abbia... possiamo anche farcelo da solo, insomma mi sembra che una guasconata di Renzi, nessuno può fare il presidente della Repubblica da solo. È un passo ed è una dichiarazione che chiarisce, però prepara l'ulteriore oscurità, e cioè che all'interno degli schieramenti, perché c'è una geografia istituzionale chiara, ce n'è poi un'altra geografia occulta, perché all'interno degli schieramenti lo stesso PD ha diverse teste, certo. Forza Italia è spaccata, ma secondo me poi bisognerà lavorare su quella pattuglia dei 5 Stelle sempre più numerosa, che forse sarà disponibile a votare qualcuno, spariglierà. Sono d'accordo, avremo tutta la prossima settimana naturalmente per parlarne. Intanto il problema resta, c'è chi ci scrive, Marco dice non c'è problema, non discutete, il Presidente della Repubblica è già stato scelto dall'Europa, beato lui che lo sa, se lo sai Marco scrivici perché noi ancora non lo sappiamo. Intanto un altro anche spiritoso, Enzo da Milano, dice ci vuole un grande arbitro, sì, Collina, vabbè. Intanto il problema, dicevo, resta come in Collina? No, Collina è un grande arbitro di calcio internazionale, tu proprio di pallone lui non sa niente, ma cosa? E non mi guardate male, diceva il problema resta l'economia e il problema dell'enorme tassazione sulle imprese, di questo parliamo tra poco. Le vessazioni fiscali non si conoscono neanche quante sono, perché nessuno le ha mai censite quante sono. Un lavoro con il quale non si può più andare avanti, colpa della crisi e di uno Stato che soffoca le imprese con tasse e burocrazia. Si lavora tanto, alla fine del mese, i primi 7 mesi sono di qualcun altro, vanno allo Stato, le tasse. paga questo, paga l'altro, adesso ti mettono in ginocchio perché vai in banca, chiedi credito e non ce l'hai, e ti mettono in ginocchio perché devi fare un investimento e non puoi farlo. A conti fatti, a volte conviene lavorare meno, perdere un po' di lavoro e rinunciare ad avere un dipendente. Vorrei che il ministro del lavoro andasse in giro di notte nei panifici, andasse in giro di giorno nei cantieri edili, andasse direttamente dove c'è il lavoro. Allora lì capiscono i problemi reali. La pressione fiscale che condannare alle stelle. Abbiamo lavorato 7 mesi per pagare le tasse. Gli altri 5 mesi abbiamo ancora preso i soldi, però abbiamo già pagato le tasse. Avete pagato anche l'IMU su... IMU, 3.000 euro di IMU. E la cosa assurda, vergognosa, perché questa qua è una cosa vergognosa, essendo i capolui delle banche, dovrebbe essere le compagnie di leasing a pagare l'IMU. Porca troia, questa è la banca a pagare l'IMU, non l'imprenditore. Lo Stato mi ha portato a queste condizioni. Ho dovuto chiudere perché non ce la facevo più, né tasse sopra tasse, non riuscivo più. E sono venuto ad abitare in questo camper. Avevo 12 dipendenti e adesso purtroppo non esercito più. Lei non riesce più a pagare le tasse? No, non posso pagare le tasse. Qui c'è la corda, vedela. Poi mi sono reso conto che non vale la pena che mi tenga io. Lo Stato va a pesola. E quelli che dovrebbero essere i nostri tutori. Non che vengono qua solo a vessare, ma in cerca solo di vessare. Tasse. Qual è il problema di fare impresa in Italia? Sempre le tasse, perché noi purtroppo lavoriamo 8 mesi all'anno esclusivamente per il governo. A questo punto noi non riusciamo più ad arrivare a fine mese. Le tasse a noi ci costano il 79-80%, ma non è una bugia, è la verità. E questo non si può più andare avanti. Fabrizio Castoldi, 70 anni, presidente del gruppo BCS di Abbiate Grasso, una società specializzata nella progettazione e produzione di macchine agricole con oltre 100 milioni di fatturato e più di 700 dipendenti. Panorama gli ha dedicato la copertina qualche settimana fa. Ecco, ingegner Castoldi, ha sentito i suoi colleghi, dicono che il carico fiscale che grava sulle imprese italiane è insopportabile, è vero? Confermo. Lei ha fatto una simulazione, nella sua intervista se ne è parlato nell'inchiesta di Panorama, sugli ultimi 8 anni di attività della sua azienda per capire qual era la reale pressione fiscale. Cosa ha scoperto? Ho scoperto un dato raccapricciante. Diciamo che nell'arco di questi 8 anni presi in considerazione, che andavano dal 2002 al 2010, la pressione fiscale media per noi è stata del 70,02%. Ecco, ma com'è possibile, dottor Castoldi, se secondo le classifiche internazionali la tassazione sulle imprese italiane, la tassazione media, è circa del 31,4%? Allora sbagliano le classifiche internazionali? Mi permette di sghignazzare? Prego. Questo dato non è vero. O perlomeno è vero solo in piccola parte. Diciamo che il 31,4% è vero solo per il circa il 24% delle aziende italiane. Ossia, e le altre sono nella sua situazione? No, le altre sono molto più alte. Le spiego meglio. Ogni impresa in Italia è sottoposta a 3 tasse diverse. Una si chiama IRAP, l'altra si chiama IMU. D'accordo. E infine abbiamo la famosa IRES, sì, che è la tassa che c'è in tutto il mondo. Allora, bisogna vedere come si calcola. La più semplice è l'IMU. L'IMU è la tassa che si calcola sul valore catastale degli immobili, capannoni e terreni. IMU quindi è variabile, nel senso che se io produco qua, l'IMU è molto alta. Se invece io non produco qui in Italia, ma sono semplicemente un'azienda commerciale, produco all'estero e vendo qui in Italia, non ho capannoni, non ho terreni, quindi la mia IMU, va bene, è bassissima, è come se non esistesse. Poi IRAP. L'IRAP è un'altra tassa che si calcola sul costo del lavoro, sostanzialmente, poi ci sono, sì, tante piccole. No, vabbè, cose. Ok, però. Costo del lavoro. Quindi se io non operai, è chiaro che la IRAP mi scende quasi a zero. Quindi scusi, per riassumere semplicemente, lei dice che praticamente, se ho capito bene, il nostro sistema, sì, fiscale è penalizzante nei confronti delle aziende manifatturiere che hanno, sì, tutti gli strumenti, che sono il grosso del tessuto industriale italiano. Esattamente, sono quelle che impiegano, le aziende manifatturiere private sono quelle che impiegano 11 milioni di lavoratori. Quindi le tasse, oltre a essere troppo alte, sono anche mal distribuite, questo no, il tema. No, sono squilibrate. E lei cosa propone? Io propongo semplicemente che noi dobbiamo avere una tassazione unica, va bene, che sia paragonabile, che si uniformi con le tasse che pagano i nostri concorrenti in Europa. Noi nell'area dove c'è la moneta unica non possiamo avere delle tasse troppo diverse che vanno dal 29% in Germania all'80-90% in Italia. È chiaro che una situazione del genere ci butta fuori. Ma scusi dottor Cassoni, sì? Le sue aziende hanno 3 impianti in Lombardia, in Emilia e alcune filiali all'estero, dalla sì? Spagna alla Cina. Ecco, in sì? Cina per esempio, quale aliquota pagano le aziende meccaniche come la sua? Tutte le aziende in Cina pagano il 25% di tasse e non ci sono altre tasse. Ce n'è una sola di 25%. Ce n'è una sola che corrisponde alla nostra IRES. E quindi è impossibile competere con le aziende cinesi del suo settore? Beh, prima di tutto è impossibile per due motivi, perché da una parte le tasse sono molto più basse, che poi il 25% ma scendono al 15%, attenzione, per l'industria, proprio industria meccanica in Cina scendono al 15%, per di più hanno un costo del lavoro basso, che è un decimo basso, del nostro. Certo. Ma in Germania e in Francia che tassazione è prevista per aziende come la sua? Mi dica la cifra. In Francia paghi il 33,33% indipendentemente dai dipendenti. Perfetto. Perché è il 33% sull'utile lordo, mentre da noi abbiamo la tassa sull'utile lordo che è l'IRES, poi IMU e IRAP che non sono sull'utile ma sono su altre cose. Sì. Senta, il ministro Padoan ha risposto al suo articolo dicendo che a partire dal 1 gennaio, come previsto dalla legge di stabilità, il governo ha cancellato l'IRAP per i lavoratori a tempo indeterminato. È soddisfatto? Parzialmente soddisfatto. Bisogna intervenire anche sull'IMU, non solo sull'IRAP. Ingegner Castoldi, avendo fatto i calcoli sulla sua esperienza imprenditoriale, ha scoperto che abbassando l'aliquota lo Stato incasserebbe di più, ho capito bene? Assolutamente. Mi dice in due parole come? Assolutamente sì. Mi spiega perché l'aliquota, se si abbassassero le aliquote, lo Stato incasserebbe di più? Me lo dice in due parole, però? Io cerco di dire in due parole. Grazie. Va bene, noi abbiamo fatto una simulazione. Sugli ultimi 8 anni dei nostri bilanci abbiamo considerato, nei quali appunto, come dicevo prima, abbiamo pagato il 70% di tasse, abbiamo ipotizzato invece di un pagamento, una tassa diciamo a livello europeo, cioè anziché il 70% il 30%, quindi abbiamo calcolato che cosa avremmo risparmiato, va bene, quanti denari in più sarebbero rimasti in azienda, perché non sottratti dallo Stato con tasse eccessive, che sarebbero stati convogliati in ricerca e sviluppo. Abbiamo visto, facendo una simulazione molto prudenziale, avremmo potuto mettere in produzione 3 progetti in più che abbiamo fermi nel cassetto. Che avrebbero fatto più assunzioni, questo? Avrebbero fatto, nella prima ipotesi, un 12% di fatturato in più, va bene, questo 12% di fatturato in più, essendo al di sopra del punto di equilibrio, avrebbe portato un notevole incremento nel reddito dell'azienda, va bene, e a circa 60 posti di lavoro in più. Senta, sempre nella legge di stabilità ha inserito il provvedimento che per le assunzioni nell'anno 2015 dice che i contributi da versare sono 0. Beh, mi sembra un buon incentivo per le assunzioni, no? Senta, mi scusi se posso rispondere sinceramente. Deve. Questa cosa qua è ininfluente. Perché? Cioè, è fondamentale, perché nessuno assume se non c'ha lavoro. Beh, certo, se non c'è il mercato. Possono fare tutti gli incentivi che vogliono sulle assunzioni, ma devono fare gli incentivi sulle vendite, sul mercato. Noi dobbiamo poter vendere di più e riusciamo a vendere di più se possiamo investire di più. Diciamo che gli incentivi sulle vendite non si possono fare, bisogna aumentare i soldi nelle tasche degli italiani. Sì, in questo senso, cioè indirettamente sulle vendite, devono ridurre le tasse. E per quanto riguarda le aziende, una riduzione di tasse a livello europeo, non pretendo niente di più, va bene, porta a un incremento di ricerca e sviluppo. L'incremento di ricerca e sviluppo consente di mettere in produzione nuovi modelli, nel nostro caso consente di sviluppare il fatturato. Per sviluppare il fatturato io devo assumere operai, quindi devo aumentare i miei posti di lavoro. Vabbè, e quindi da questo punto di vista la soluzione prevista in quel momento che ci siano gli incentivi o no, assumo, capisce? Beh, se ci sono, forse assume quasi subito, d'accordo. Non ha bisogno di essere certo di avere ordini per i prossimi tre anni. Ma non è per questo che assumo, io non assumo gente se ci sono degli incentivi, io assumo gente se ho lavoro. Ma se ci sono gli incentivi è incentivato ad assumere prima, probabilmente che il mercato si muova un po'. No, non è vero questo. Non, se a qualcuno fa piacere si può dire di sì. No, a me interessa la verità. Cioè, nessuno assume solo perché ci sono degli incentivi. Tutti assumono se c'è lavoro. Allora, con incentivi o senza incentivi si assume. Ingegner Castoldi, mi faccio un'ultima domanda. È più facile aprire uno stabilimento in Lombardia o in Cina? Ma per carità. Assolutamente in Cina mi viene da dire. L'ho fatta, lo so anche io la risposta. Ma è per capire il perché. Senta, se lei ha già un terreno, se questo terreno è già in un'area industriale, nel senso che lei può ampliare, se vuole ampliare il suo stabilimento allora è facile, ma se lei incomincia, deve incominciare a cercare un terreno, a ottenere tutte le licenze, urbanizzazione eccetera eccetera, la cosa è molto complessa. In Cina è facile, glielo danno subito il terreno. Stanno costruendo dei poligoni industriali che solo a vedere i disegni lei rabbrividisce, ma sono delle aree immense, dove noi per esempio abbiamo recentemente avviato una filiale in Cina, va bene, è stata questione di forse cos'è un mese, neanche. Lei trova tutto quello che vuole perché il governo incentiva lo sviluppo dell'industria. Grazie. In un modo fantastico. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS, sono tantissime naturalmente le reazioni su questo tema delle tasse. Pietro da Milano: paghiamo troppa gente, gente che come Franco che dice non posso lavorare solo per pagare lo Stato, e Roberto da Latina: non ce la faccio più, sono un piccolo artigiano. Insomma, tantissimi che ci scrivono su questo tema e noi andiamo avanti a parlare ancora di questo, perché vogliamo raccontarvi come nell'America dei primi anni '80 Reagan ha ereditato una società che viveva una profonda crisi, una profonda recessione. Il debito pubblico era alle stelle, il sistema previdenziale era a rischio, c'era un altissimo tasso di disoccupazione. Ed è lì che Reagan introduce quelle che sono poi state chiamate le Reaganomics, la riforma fiscale, il cavallo di battaglia del primo mandato del presidente americano. Nel febbraio dell'81 il presidente, con un discorso al Congresso e alla nazione, annuncia un taglio drastico alle tasse. Sentiamo Reagan. Lasciate che vi spieghi qual è la situazione. Insieme ai tagli di budget abbiamo presentato un completo programma di riduzione delle tasse. Il nostro obiettivo è stato quello di dare incentivi agli individui e alle imprese per incoraggiare la produzione e le assunzioni dei disoccupati e per sbloccare fondi per gli investimenti. Il nostro provvedimento punta a una riduzione delle tasse del 5% a partire dal 1 ottobre, del 10% dal 1 luglio 82 e di un altro 10% un anno dopo, per un totale del 25% in tre anni. Ma per assicurare che il taglio sia permanente, vogliamo indicizzare le aliquote fiscali al 1985, che significa adattarle all'inflazione. Allo stato attuale, la crescita del costo della vita, risultato dell'inflazione, si accompagna a una crescita del vostro salario, ma questa crescita può probabilmente farvi finire in una fascia di imposta più alta e finite per guadagnare di meno. È ciò che chiamiamo fiscal drag. Si tratta di un problema fastidioso. Se per esempio avete guadagnato $10,000 nell'anno 1972, nel 1980 dovreste guadagnare $19,000 per restare a pari con l'inflazione. Ma questo prima delle imposte. Al 15 aprile avrete scoperto che le aliquote saranno cresciute del 30%. Quindi, se non vi sembrerete così benestanti come lo eravate prima, sappiate che accade perché lo Stato ha fatto un profitto sull'inflazione. Acquisisce un un sostanziale aumento delle entrate da imposte senza neanche doverlo votare. È ciò a cui vogliamo mettere fine. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666. Dopo il giornale radio racconteremo compiutamente la storia di Reagan e della sua riforma. Professor Antonio Felice Euricchio, rettore dell'Università di Bari, la riforma di Reagan nasce dalla curva di Laffer. Ci spiega brevemente in che modo, in un modo che sia comprensibile a tutti, che cosa vuol dire? La curva di Laffer esprime il rapporto fra le aliquote e il gettito fiscale ed evidenzia come, inasprendo le aliquote, la tassazione quindi diventa più onerosa, ma il gettito non aumenta. A questo punto ridursi, anzi c'è un punto di non ritorno in cui il gettito inizia a ridursi, perché i contribuenti non producono più materia imponibile e quindi anche il livello anche di gettito cade. Certo. Ecco, l'ingegner Castodi, che ha parlato prima, ha fatto emergere una differenza profonda, appunto, della pressione fiscale tra le aziende che forniscono servizi, che pagano meno tasse, quelle che producono, che invece di tasse ne pagano molto di più. È qui la grande contraddizione del sistema fiscale italiano, dal 35% al 71%. Indubbiamente, ma questo dipende dal carico fiscale del lavoro. Se consideriamo la ripartizione del carico fra lavoro, consumi e capitale, il 51% è rappresentato dal lavoro, quindi le imprese che utilizzano manodopera subiscono un carico fiscale più elevato. Paradossalmente chi assume paga più tasse. Questo dipende dalla gravosità dei contributi. Rebus sic stantibus, cioè la tassazione del lavoro che è troppo alta, e nonostante anche questa riduzione del prelievo IRAP resta tra i più alti d'Europa. Ma la si può superare dal punto di vista fiscale come? Occorre un fiscal shock. A un certo punto occorre prendere atto di questo stato di cose e detassare il lavoro con gradualità, ma in modo sempre più deciso. Il nostro sistema fiscale ha scatole cinesi, è così per rendere più facile l'elusione? Anche in realtà abbiamo una complessità del sistema che scoraggia la compliance, l'adempimento corretto da parte dei contribuenti, e offre occasioni di evasione. Occorre probabilmente ripensare molti aspetti del sistema fiscale, promuovendo anche una collaborazione spinta dei contribuenti e garantendo certezza delle regole. Ecco, ma secondo lei quale sarebbe allora, per chiudere, il modello fiscale ideale per riempire sia le tasche dello Stato che fornisce servizi, che rendere facile l'adempimento corretto del pagamento delle tasse? Occorre recuperare ancora quelle ricchezze non tassate. Penso per esempio alla ricchezza che si produce attraverso la rete. Occorre ripensare modelli più di prelievo, rendendoli più moderni, cioè considerando anche le prospettive di sviluppo di carattere economico del sistema. Occorre un sistema di misure, alcune delle quali riguardano le fattispecie imponibili, altre anche gli strumenti di controllo. Penso per esempio a concordati fiscali spinti, penso a tutoraggio fiscale delle grandi imprese. Professore, però sono tutti concordi nell'affermare che la corruzione si combatte con la semplificazione burocratica e legislativa. Ma la vede all'orizzonte? Io credo che sia ancora lontana, ma è un percorso obbligato. Dobbiamo lavorare sulla semplificazione e sulla certezza delle regole. Finché non ci sarà quello, ci sarà anche involontaria complicità fra Stato e cittadino nel non pagare le tasse. Certo, certo, indubbiamente. La fedeltà fiscale si misura anche in funzione di alcune condizioni, e la semplificazione, la certezza e le regole sono condizioni imprescindibili. Grazie professore, pubblicità. Mix 24. Metropolitana. Io e te. Ma vedrai, ci sarà, cambierà. Ci vuole una certa gra. grazia a scrivere versi senza forza, cioè senza la forza di gravità, perché già sedersi, no? Provoca una fragile ortografia in un treno in corsa e richiede una concentrazione tutta dinamica. E me l'ha fatto osservare come al solito il filosofo, che ogni mattina mi sta accompagnando per osservare al meglio tra la gente, e ha individuato due ragazzi, due poeti accomunati dalle pene d'amore, e non sapevano questi due ragazzi come comporre un'ode da far graziosa per rallegrare la destinataria, che ha, immaginiamo, un volto severo. Perché tutto l'innamorarsi, mi ha detto il filosofo, si risolve nello scambiare ciò che è precoce, e perciò il rossore, la salivazione al grado zero, il tremore, con ciò che segue. E che cos'è ciò che segue? Si chiedevano i due poeti, cercando o imbranando come erano di poter finalmente scrivere l'ode, dei versi o almeno un sonetto. Fatto sta che alla fermata fanno cadere i fogli e quindi si mettono carponi tra i pendolari per raccogliere, sempre domandandosi che cos'è quel che segue, e il filosofo, bloccandoli, anzi raccogliendo per loro i fogli, ha detto: quel che segue è il bacio, ed è lì che dimora l'istante perfetto. Arriva una ragazza, li bacia e dice: è il flirt, è l'eterno perfetto. Io e te, dopo, vai Mario con la tua bolla. Dopo tutto sto miele. Insomma, lui ne bacia un altro giorno nuovo. Bravo, bravo. Take a look at my girlfriend. She's the only one I got. Breakfast in America, Super Tramp, che pezzo, senti. Right. Cosa dobbiamo dire? Beh, dobbiamo dire che sta capitando quello che un po' avevamo detto qua, senza, certo, voler fare quelli che conoscono il futuro, ma il crollo del prezzo del petrolio sta creando molti più guai di quanto si sospettasse. L'Europa è entrata in deflazione, i big del barile hanno cancellato, comunque diciamo che hanno sospeso, progetti per $1 trilione di investimenti, sì, certo, quindi roba che crea posti di lavoro, certo, eccetera, e così via. Ma soprattutto ci sono i dati del commercio al dettaglio, che non sono buoni, quelli di dicembre degli Stati Uniti, e preoccupano sulla reale entità della crescita americana, che tra l'altro è ampiamente drogata dalla riforma del sistema sanitario, ma questo si vedrà tra qualche mese, diciamo, tutti torneranno con i piedi per terra. La produzione nell'Eurozona, i dati che ieri avevamo preannunciato, sono pessimi, era previsto un più 0,1 a novembre, mese su mese è arrivato un più 0,2, sai che tappi di champagne hanno stappato. Un po' meglio. La cosa interessante è che la Germania ha pareggiato il bilancio già nel 2014, prima volta in 45 anni. Devo dire, è strano, chi, no? Ma chi ha pagato sto pareggio? Noi, anche noi, anche, un po' anche noi, non tutto, perché insomma non sarebbe giusto dirlo, però diciamo che i tedeschi sono stati parecchio avvantaggiati in questi anni. Salamino. La crudeltà, come tutti i vizi, non ha altro motivo che se stessa, ha bisogno soltanto di un'occasione. Salvo Sottile, buongiorno. Il tuo libro è uscito ieri per Mondadori. Cruel è il titolo, è ambientato in una redazione, la redazione di un settimanale. Insomma, c'è il racconto della vita di un giornale oppure, e la musica lo sottolinea, qualcos'altro? Beh, è un racconto fedele di quello che succede nella vita di un giornale, con tutte le dinamiche all'interno della vita di un giornale. Ma con Cruel ho cercato di fare un esperimento, ho tentato di portare il male da fuori a dentro. Per tanti anni l'ho raccontato in programmi di cronaca nera, adesso ho cercato di comprimerlo all'interno di una redazione di un giornale. C'è un protagonista che è un giornalista che a un certo punto viene toccato da un omicidio, da un fatto di sangue che lo stravolge, e cercherà di ricercare se stesso. Il male, dunque. Il male, dunque. Altro che il fango. Maliziosamente. Altro che il fango. La macchina del male. La macchina del male. la macchina del male, e cercherà di risolvere questo mistero. Alla fine, in questo libro, per fartela breve, Pietrangelo, sì, ci sono una serie di serial killer, dei serial killer dei sentimenti, dei ricordi, e poi c'è quello vero che i lettori potranno scoprire solo alla fine di questo libro, cercando di guardare oltre le apparenze. Ciao. La morale di questo libro è che bisogna guardare le cose con un po' di distacco, non innamorarsi mai delle tesi preconcette, sostanzialmente. Scusa Salvo, ma è autobiografico? No, non è autobiografico. Solo è fiction, giura. Allora, non è autobiografico, non è la risposta, diciamo, al fango di altro che numero zero, però esatto, credo che ci sia una morale in questa favola tragica, cioè c'è il racconto di una fine, la fine della cronaca nera, perché sì, una domanda che tutti abbiamo è come mai ai tempi di Maigret si trovava sempre il colpevole, e invece oggi non si trova mai un colpevole in tutte le vicende della cronaca nera? Hai centrato il punto, Pietrangelo, è questa la morale in fondo al libro, cioè alla fine non si risolve mai nulla in Italia, anche nelle cose più facili, forse perché i serial killer sono giornalisti di nera mancati, oppure i giornalisti di nera sono killer mancati. Salvo, sono Giovanni. Ciao. Ciao Giovanni. Senti, volevo sapere se si risolve il problema del tuo prossimo programma televisivo. Sì, sì, si risolve. Almeno uno lo risolviamo. Da quando? Almeno uno lo risolviamo, credo da aprile in poi. Pubblicità. Mix 24. I love Paris in the springtime. Allora, rieccoci. Giovanni, io segnalo un tema di dibattito che secondo me va approfondito soprattutto dai soloni dei giornali, se vogliono. C'è un arresto sbagliato nella vicenda di Parigi, ecco perché avevamo attaccato con I Love Paris. È quello di Dieudonné. Allora, è un commediante, un artista che fa satira, ovviamente ha delle posizioni politiche che io non le condivido, per esempio fa delle durissime critiche agli ebrei, forse anche antisemita, però attenzione, cioè, lo hanno arrestato per apologia del terrorismo. Ora, a parte che io ho letto quello che ha scritto, vabbè, si può opinare, ma diciamo, qui la cosa davvero interessante è che c'è un tema che riguarda la libertà di parola e un doppio standard, cioè se si fanno le manifestazioni per la libertà di Charlie Hebdo di pubblicare le vignette sul profeta, cosa sulla quale ci sarebbe anche qui da discutere, perché comunque sono vignette che qualunque credente, insomma, è difficile digerirle, diciamoci la verità. Beh, allora bisogna anche difendere il diritto di esprimersi di Dieudonné. C'è un grosso dibattito in corso sulla stampa anglosassone. Oggi c'è un pezzo sul Financial Times molto interessante. C'è un intervento su Bloomberg Views, molto interessante anche quello. E insomma, alla fine Charlie Hebdo è libero di pubblicare le vignette sul profeta e anche di dissacrare. E Dieudonné è libero di finire in prigione. È strana questa libertà, non trovi, Giovanni? Beh, certo, è una cosa, è una cosa a due facce. Pietrangelo, non so, è un grosso dibattito, io lo segnalo perché il problema, ma merita una riflessione, non butta fuoco. Sì. Io me la cavo con Wittgenstein. Di ciò che non si può dire, si deve tacere. Vabbè, io segnalo che c'è questa cosa che bolle. Salamino! È più affidabile, domanda che ci domandiamo, è più affidabile un'indicazione sul Quirinale fatta da Matteo Renzi o fatta da Francesca Pascale, la fidanzata di Silvio Berlusconi, riapparsa ieri ancora più florida, salutiva, col capello giallo, molto mimitira Bouchot, con sorriso tagliente. Ecco perché una domanda importante, perché Renzi, a leggere oggi il pezzo di Francesco Verderami sul Corriere, di Renzi in realtà non ci si può fidare. Tutti quelli che in queste ore, in queste giornate, si stanno ubriacando con le rassicurazioni avute dal Premier che promette e fa intravedere loro il colle, vengono poi contattati da Massimo D'Alema. L'ex Premier, infatti, lo ricorderete, era in ballo per una nomina in Europa, ricevette un rassicurante messaggio da Renzi. D'Alema, e i mezzi ormai lo consentono, ha conservato in memoria sul telefonino questo SMS di Matteo Renzi. Cosa viene fuori? E viene fuori che ognuno che arriva ubriaco, contento, che già si vede al Quirinale, D'Alema cava fuori di tasca il suo iPhone e fa vedere a chi si sente già capo dello Stato che cosa può promettere Renzi e ovviamente non mantenere mai. La Pascale invece, beh, la Pascale che ha un'idea almodovariana dell'eleganza, ha dato a Repubblica il nome elegante in assoluto. E chi è? La veramente elegante Anna Finocchiaro. Benedetta, la tu, Benedetta. Ma tu sei favorevole a Finocchiaro? Io certo. Ma certo, c'è ragioni di bandiera. Io di mio sarei monarchico, però Giovanni mi perdonerai, di matrice borbonica. C'è stato un referendum, almeno questo tema per Giovanni, ora non riapriamo. Proprio tu lo sai, quanti brogli ci furono. Quota rosa. Se potessi avere 1000 lire al mese, senza esagerare, sono certo di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego, io non ho pretese. Che altro possono cantare le partite IVA se non 1000 lire al mese, giusto quelle ci si può augurare di guadagnare. C'era una volta un regime dei minimi, agevolato, ma poi per far iniziare l'anno nel migliore dei modi è arrivata la riforma sul regime fiscale che ha travolto chi rientrava nel regime dei minimi. Più tasse, più tasse, più tasse, e hanno alzato così tanto le tasse che se ne sono addirittura accorti. Sentite Matteo Renzi ieri sera. Allora, l'autogol, più l'ultimo autogol, legge di stabilità, le partite IVA. Devo andare nel merito e nel dettaglio, lo spiego. Ho fatto un errore in una legge, Pasquale, ho sbagliato una cosa, ma adesso la recuperiamo. Avete visto che avevo ragione ad essere fissata con le partite IVA? Io sento subito l'odor di ingiustizia e come Robin Hood romperò sempre le scatole a tutti i re John. Tasse! Tasse! Bellissime e adorabili tasse! Sire, voi siete bravissimo a convincere i poveri a farvi omaggio dei loro risparmi. Per coniare una frase, mio caro consigliere, ruba al povero per sfamare il ricco. Questa è buona. Mario, prima della tua bolla, una bella notizia. Ieri su Rai Storia, va detto, c'era un servizio pubblico vero, uno splendido documentario, Pinocchi di Trincea, il corpo ferito nella Grande Guerra, per la regia di Francesco Conversano e Nene Grignaffini, testi di Barbara Bracco, una produzione di Rai Cultura realizzata da Movie Movie. Bravi, servizio pubblico allo stato puro. Una bolla, Mario. Anche questo è servizio pubblico, senti. Il soldato russo è valoroso, stoico e paziente. Per questo è invincibile. Vogliate bene ai vostri soldati russi. Ora! Allora, vabbè, questo era il barbiere di Siberia. Introduciamo di nuovo uno dei temi che noi seguiamo con attenzione: l'Ucraina, i Balcani, il gioco di Putin. C'è una situazione meravigliosa in Ucraina, come sapete. Beh, dopo la rivoluzione è scoppiata la pace, la democrazia trionfa e la situazione nell'est è di assoluta Arcadia, è un paradiso mai visto. Vabbè, le forze armate di Kiev le stanno prendendo, come sapete, e la guerra è ancora molto viva, anzi si teme che sarà sempre più viva. E ci sono due cose che segnalo. Economista Espresso stamattina disegnava uno scenario molto molto duro per la situazione dell'Ucraina dell'Est, con una ripresa e un'escalation delle azioni militari. L'altra cosa curiosissima è che Così, stranamente, il Financial Times disegnava e suggeriva in qualche maniera all'Unione Europea di far sì che Putin diventi il grande diplomatico dei Balcani. Questo perché? Cioè per consentire a Putin, con le sue relazioni, di stabilizzare la Bosnia, che è un paese che sta per esplodere sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista dell'equilibrio, di consentire che Serbia e Albania diciamo non si facciano la guerra, e così insomma si alleggerisce la pressione su Mosca per il caso Ucraina e tutti vivono felici e contenti. Questa cosa è molto interessante perché dimostra come non si possa fare a meno, nel grande risico della diplomazia, di Putin. Tutto qua. Segnalo sempre a quelli del pensiero unico. Sempre più centrale. Ecco, oggi dopo il giornale radio, come abbiamo detto anche prima, inizia la prima delle due puntate che dedichiamo a Ronald Reagan, il 40esimo presidente degli Stati Uniti, che arriva alla Casa Bianca nel novembre dell'80, quando gli Stati Uniti attraversano una grave crisi economica. Oggi raccontiamo la prima puntata curata da Marina Milone, raccontiamo, dicevo, la sua ascesa da attore di Hollywood e poi il suo programma volto a una fortissima riduzione delle tasse. E per chiudere, senza problemi, di Chiara Civello. Di giorno io mi sento che non ti amo più. La notte non ha pace se non ci sei tu. E quando incontro una via d'uscita, tu cambi i tuoi sogni.